Denso tan todo tida osada tan numenetan tu de santa historia zen peldala baten ere imimoria. Tenere in memoria da esudia in vinsi un milan posta da si stalla e la ciamo isorta. Si stalla e già la ciavo isorta, saiu isconce do tu su orata, mi va coa da innanti si e sa barata. Si stalla e già la ciavo isorta, saiu isconce do tu su orata. Saiu isconce do tu orata. Mi va coa mata in antia e sa parata. Ne amici renengo e nengai cosa che non mai dove calma cosa che non mai cosa tu mai e te della veda e riva e te taira e te ta mia roba ganjuda saca valeria roba ganjuda saca roba Soskiski anaki vi metalizera. Soskiski anaki vi metalizera. Tando behaki anai dupu wa asa manera. Akoste atende mi aisa ya. In cara hoja li tia li tia in cara li brobia zuzuore cavi bigonza e cavi mamma e besta cavi bigonza sa de mamma e mamma e prestalen i sagumoso zo amanca e adresta istendes a sormuro con voi nel cuore.